Incontri di Gianfranco Fabi. Note inconfondibili della Rapsodia in blu di George Gershwin. Iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Paola Corna Pellegrini. Buonasera. Paola Corna Pellegrini è CEO di Allianz Global Assistance. Poi ci spiegherà cos'è Allianz Global Assistance, ma cominciamo dalle cose belle, ma non perché Global Allianz Assistance non sia una cosa bella. Cominciamo dalla musica, cominciamo da Gershwin. Cosa le ricorda la Rapsodia in blu di Gershwin? La Rapsodia in blu di Gershwin l'associo a tanti ricordi, tra questi comunque devo dire anche l'ultima esecuzione che ho ascoltato di Chahi, che forse è un'esecuzione più recente, anche certo. Un po' meno conosciuta, non lo so, ma che a me è piaciuta molto anche per i ricordi che col maestro Chahi da ragazzi negli stessi posti in montagna ci hanno visto passare le estati in Trentino in montagna con paesaggi molto interessanti e con esperienze anche interessanti di persone come Chahi, che certamente è ricco di grande umanità e di grande valore. E allora vediamo un po', però Allianz Global Assistance, di cui lei è responsabile in Italia, è una delle maggiori compagnie assicurative, però un po' particolari. Sì, allora Allianz Global Assistance fa parte del gruppo Allianz, quindi una delle compagnie leader a livello mondiale in Italia. Allianz Global Assistance in particolare è la società del gruppo che fa assistenza alla persona, in particolare conosciuta per l'assistenza al viaggiatore, diciamo, quando uno deve organizzarsi il proprio viaggio piuttosto che comprare un pacchetto da un tour operator, acquista anche una polizza assicurativa sempre per evitare che anche un piccolo inconveniente possa turbare, per rimediare gli inconvenienti, esatto, la propria vacanza, che purtroppo ogni tanto accadono di tutti i tipi, e questo vale sia per le persone sia per le aziende. Voi avete come clientela sia le aziende, sia i tour operator, sia le persone, e siete un'azienda che è cresciuta molto negli ultimi anni a livello italiano e anche a livello internazionale. Sì, l'azienda Allianz Global Assistance nel mondo è leader in questo mercato e cresce a tassi del 7-8% anno dopo anno, quindi oggi vale più di 2 billion a livello mondiale. In Italia siamo la seconda società del mercato, leader assoluta nel mondo del turismo, con un fatturato che quest'anno arriverà a sfiorare i 130 milioni di euro di fatturato. Ecco, quindi è una società nell'ambito del gruppo Allianz, è un gruppo tedesco? Sì. Un gruppo tedesco che è noto anche per lo stadio di Monaco, o sbaglio? Sì, l'Allianz Arena, famosissima, bellissima, tra l'altro. È sicuramente un'azienda, una compagnia di assicurazioni che investe anche molto sia per esempio sullo sport, sul sociale, come sponsor delle Paralimpiadi, quindi svolge un ruolo sociale molto importante, e un ruolo sociale anche per esempio in tutto il mondo dell'assicurazione al viaggiatore, di cui noi tra l'altro facciamo una parte complementare, che è quella, loro vendono giustamente l'RC e noi vendiamo l'assistenza, quindi se uno rimane in panne è il carro attrezzi Allianz Global Assistance che lo va a recuperare. Quindi c'è un'attività che è complementare, che si aggiunge, che si integra con quella degli altri rami assicurativi, un'attività che però è diciamo così un po' sporadica, uno si assicura nel momento in cui va in viaggio, però il business diciamo è continuo nonostante tutto, si viaggia molto. Sì. Come si è chiuso il 2014 e cosa prevedete per il 2015? Allora, 2014 si è chiuso molto bene, devo dire, e nonostante il mercato in sé, il mercato del turismo nel quale noi principalmente lavoriamo, non abbia fatto registrare grandi riprese. Quest'anno prevediamo che sia un altro anno buono, anche perché noi abbiamo continuato nel frattempo a innovare in termini di prodotti, di offerta, di tecnologia facilitante, diciamo, l'accesso al nostro servizio di assistenza, e quindi in realtà abbiamo guadagnato quote di mercato grazie a questa forza. Sono cresciuti o sono diminuiti i prezzi negli ultimi anni dei vostri servizi? Ma diciamo che è difficile dire se sono cresciuti o diminuiti, li abbiamo differenziati e diciamo tailorizzati, bruttissimo termine, ma insomma fatti su misura per le esigenze dei singoli Comunque c'è viaggiatori. concorrenza anche in questo settore. Sì, c'è molta concorrenza, quindi se parliamo del B2B, cioè business to business, sicuramente i prezzi sono diminuiti. Se parliamo del business to consumer, sono variati in funzione, sa che noi come polizze, il nostro costo nasce dalla sinistrosità, cioè dalla frequenza Certo. d'uso della polizza o dell'assistenza. Quindi un giovane magari è meno sinistroso di un Cioè anziano, rischia meno di avere non per fare. malattie o incidenti, Sì, o sì. incidenti, esatto. Ecco, torniamo a lei, alla sua esperienza. Come è arrivata a questa società, ad Allianz Global Assistance? Per quali incontri casuali o per quali scelte volontarie è arrivata a questa posizione? Diciamo che la posizione mi è stata offerta, come succede nelle migliori Certo. occasioni, perché mi è stata offerta? Perché nella mia esperienza, che è un'esperienza abbastanza variegata, diciamo come settori industriali in cui ho lavorato, io avevo già lavorato 20 anni prima in questo settore e quindi unendo questo al profilo manageriale che veniva ricercato, cioè una managerialità piuttosto solida per affrontare, quindi già consolidata precedentemente, per affrontare una situazione di mercati e aziendale che necessitava una revisione profonda sia della strategia che Ma lei quando è dell'organizzazione. uscita dall'università cosa voleva fare? Aveva pensato di fare una cosa del genere oppure pensava di fare altre cose? Guardi, io sono laureata in matematica. Quindi i primi colloqui di lavoro, diciamo pre-laurea, sono stati molto con Olivetti allora, quindi molto nell'area dell'informatica, e poco avevano a che vedere con quello che poi ho fatto. Cos'è che è stata la svolta? Fare un master in business administration, che anche lì, per la fortuna degli incontri, a una cena mi è stato raccontato di questo master del QOA, che tra l'altro, avendo io studiato a Padova, era vicino perché era ad Altavilla Vicentina, ed è lì che è iniziato il tutto, perché al master ho conosciuto il marketing, per me fino allora parola sconosciuta, e poi finito il master sono entrata alla Henkel Cosmetics, che allora aveva sede là, adesso è a Milano. Quindi in settori appunto in cui il marketing è molto forte, e anche in questo settore, nel settore attuale, il marketing è in realtà importante. Una domanda per concludere la prima parte, ma l'essere donna come quanto ha contato e quanto ha contato anche come possibilità, diciamo, non dico negativa, ma comunque di freno a fare carriera. Quante ore ho per spawn? 10 Scherzo. secondi. È contato, diciamo che è stato sicuramente una delle aree, delle sfide che ho dovuto affrontare nella Cioè, mia carriera. quindi è una sfida da affrontare, una sfida in cui si mette in gioco appunto la personalità femminile, che comunque proprio perché forse un po' diversa ha anche qualche vantaggio in più. Diciamo che gioca la diversità in positivo? Io ho cercato di giocarla in positivo. Questo è quello che probabilmente ha determinato il mio successo. Incontri. Ancora con George Gershwin, ancora con la Rhapsody in Blue, riprendiamo il nostro incontro con Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Global Assistance, responsabile di questa società che opera nel campo assicurativo personale. Abbiamo spiegato nella prima parte appunto la realtà, l'attività di questa società che fa parte di uno dei grandi gruppi mondiali delle assicurazioni. Tra l'altro Allianz è anche questo grattacielo nuovo, il più alto grattacielo di Milano, D'Italia, d'Italia. sì, la Torre Isozzacchi, che è cresciuta veramente rapidissimamente in City Life e che sarà pronta, diciamo, esterno per l'Expo, Diventerà ma nel 2017 anche sede di Allianz di Italia. Allianz Italia. Ecco, qui dicevamo di Allianz come società, ma abbiamo concluso la prima parte parlando di Paola Corda Pellegrini come donna e anche come madre. E allora la domanda è questa: essere madre è un limite? Come conciliare il ruolo di mamma, questa conciliazione tra la famiglia e la carriera? Lei dimostra che è possibile. Sì, io dimostro che è possibile con una tenacia incredibile e anche con un supporto, se vuole, familiare, inteso non tanto come purtroppo nonni che non Per vivevano fortuna, non dico. nella mia stessa città, quindi non mi hanno potuto aiutare Certo. tanto, quindi ci siamo arrangiati io e mio marito, ma a un certo punto mio marito ha capito, quando io ho gettato la spugna, ho detto io non ce la faccio più a essere la moglie ideale, la donna di casa ideale, la madre ideale, ho bisogno di aiuto. Questo è successo quando i bambini avevano, diciamo, erano ancora piccoli, e devo dire che ho trovato il mio marito, per quanto anche lui un professionista in carriera, perché è professore universitario, è medico e quindi è chirurgo, quindi Però ha fatto potete un po' la mamma immaginare, anche lui. più che la mamma, no, no, ha No. fatto il cuoco. Mi aiuta molto in alcune cose della casa, Beh, tra sono cui importanti anche cucinare, queste, certo. a cui si è appassionato, e quindi già questo è un grande aiuto, diciamo. Ecco, la società italiana di fronte alle donne in carriera, sono ancora una rarità, sono ancora qualcosa di particolare. Come mai c'è anche questa scarsa partecipazione femminile al lavoro? L'Italia è ai livelli più bassi come partecipazione femminile al lavoro. Sì, purtroppo in Italia meno del 50% delle donne lavora, e questo è uno spreco dal mio punto di vista di talenti, da un punto di vista del lavoro e di quello che è il contributo che potrebbe essere dato da parte delle donne, ma è anche per i consumi che potrebbero essere generati da Certo, più donne al lavoro, loro, quindi che più redditi, più quindi. redditi nella singola famiglia, ma Certo. anche altre persone che poi lavorerebbero proprio per supportare la famiglia in cui entrambi i genitori lavorano. Penso al mio caso, ho avuto sempre due o tre persone al lavoro nella mia famiglia, nella mia casa, per permettermi di svolgere il lavoro anche molto impegnativo che io ho scelto di fare, come orari, come intensità, come viaggi, eccetera. Ecco, ma si potrebbe fare qualcosa di concreto anche, per esempio, all'interno della sua società per aiutare, le donne che vogliono lavorare? Sì, allora, secondo me ognuno dovrebbe fare una parte, le società, le aziende, permettendo alle donne nel momento in cui sono in maternità e in assenza di maternità di rimanere in contatto con l'azienda e comunque di rientrare poi in azienda nella propria mansione precedente o in un equivalente, dando loro, noi per esempio facciamo dei corsi di affiancamento al rientro, proprio perché è un momento delicatissimo in cui la donna vive il senso di colpa di aver abbandonato i figli, nello stesso tempo si sente inadeguata rispetto al lavoro perché è rimasta un po' indietro, quindi è un momento molto delicato. Superato quello, tutto molto più facile. Questo lo possono fare le aziende, ma secondo me quello che dovrebbe essere fatto a livello di società, di governo, è un investimento in infrastrutture, perché le aziende italiane possono anche Asili nido, investire in asili essenzialmente. nido, eccetera, ma è la società che deve dare questi servizi, e sgravi fiscali alle famiglie per permettere alla donna che decide di tornare al lavoro di sentirsi tranquilla del fatto che comunque riesce anche a finanziare gli altri Certo. servizi di cui ha bisogno per mandare avanti la Quindi famiglia. ci vuole un impegno pubblico, un impegno della Sì. società intesa come Stato, come comuni, come enti locali Sì. che aiutino appunto le donne a svolgere proprio la loro attività e anche a mettere a frutto i propri talenti. Ma la società intesa in senso di società alias come la vostra, lei ha accennato prima al fatto che c'è molta tensione sociale, ci sono molte iniziative anche a livello di gruppo sul fronte proprio della solidarietà, dell'integrazione anche delle persone. Voi avete delle iniziative particolari, mi pare, per i diversamente abili. Sì, questa è un'iniziativa molto molto interessante dove l'Italia è stata pilota per tutta l'Europa, la chiamiamo My Light. Abbiamo creato un gruppo di operatori, sono una decina di operatori. Gli operatori sono coloro che rispondono al telefono al nostro assicurato nel momento in cui è in panne, diciamo, ha bisogno di assistenza. E costoro sono persone che non vedenti, che quindi abbiamo formato, e soprattutto abbiamo dato a loro degli strumenti anche tecnologici, parliamo di hardware e software, che permettano loro sostanzialmente di vedere quello che non vedono, quindi di essere guidati nella compilazione dei dossier, nell'aprire il dossier a livello elettronico, in modo tale che la loro attività sia esattamente comparabile a quella di un operatore Certo. normovedente. sono per noi stati un'esperienza molto positiva, non solo perché ovviamente siamo impegnati nel sociale, ma perché sono di grande esempio per tutti gli altri lavoratori, per tutti noi. Superano delle barriere incredibili, anche solo per venire a lavorare. C'è gente che prende un treno o due metropolitane e viene a lavorare da noi e sono entusiasti. Cioè bisogna veramente imparare da queste persone, perché noi siamo viziati. E ognuno può mettere a frutto, appunto, come dicevo, i propri talenti, ognuno ha dei talenti diversi, delle particolarità diverse, appunto. Forse, ecco, anche chiamarli diversamente abili può essere così un eufemismo, una ricerca un po' retorica, però è vero, hanno delle abilità che magari altri non hanno, le persone, tra virgolette, normali possono non avere delle abilità che chi invece ha qualche particolarità può sviluppare di più certe caratteristiche. In questo senso ci deve essere posto per tutti nella società complessiva e nelle imprese, nelle aziende. Certo, sicuramente. Queste persone, per esempio, che tra le altre cose, tra parentesi, odiano essere chiamati diversamente abili, sono andata ad una riunione... Chiamiamoli ciechi, insomma. Sì, ecco. Sì, chiedono di essere chiamati per quello che sono. Difatti l'Unione Ciechi Italiani, con cui certo. abbiamo collaborato per creare di Milano per creare questa iniziativa, si chiamano ciechi e sono persone che nel nostro mestiere hanno una caratteristica che è, per esempio, questa ovviamente sviluppata capacità di intuire, no, da segnali che non sono quelli visivi, permette loro tramite il telefono di creare un'empatia particolare col nostro assicurato e di capirne i bisogni molto meglio magari di noi. È una persona che magari è distratta da altre cose, esatto. da altre attività. Ecco, io mi auguro che voi assumiate dei giovani. Come trovo i giovani di oggi? Allora, noi assumiamo giovani anche se, diciamo, non è facile al giorno d'oggi assumere nuove persone, proprio perché siamo chiamati a continuamente cercare efficienza nel nostro mestiere, la competitività è sempre maggiore. Però io adesso sto avviando almeno due iniziative proprio per valorizzare i giovani. Iniziative che riguardano l'assunzione di nuove persone all'interno dell'attività core di centrale operativa, e lì effettivamente poi mi serve la carica dei giovani, perché è un lavoro che alla fine un po' no, ti esaurisce, sì, no? sì. E ti tiene sempre richiede molto forza e coraggio. Forza e coraggio, esatto. E quindi è bene fare iniezione di giovani, ma anche sto sviluppando una partnership con la Università della Sapienza di Roma, che sta lanciando un Master in Inventive Engineering. E con loro, che peraltro mi hanno invitato a far parte dell'advisory board, a fare della docenza, offriamo come Allianz Global Assistance due borse di studio per due giovani che vogliano partecipare al master e lavorare su due progetti di innovazione legati al nostro business, che quindi poi faremo anche realizzare attraverso anche il supporto concreto dell'Università La Sapienza. Anche perché nel vostro campo l'innovazione conta molto, ci sono state probabilmente molte innovazioni negli ultimi anni con internet, con i telefoni, con i satellitari, con i GPS, quindi c'è una grossa dose di innovazione che potete mettere a frutto. Sicuramente l'innovazione tecnologica di questi ultimi anni ha dato grandi opportunità a noi che facciamo assistenza. La telematica che lei citava è uno degli esempi. Telematica applicata all'auto, come già è sotto gli occhi di tutti. Noi oggi abbiamo più di 200.000 auto assicurate con quella che noi chiamiamo l'onboard unit, cioè il device che permette il collegamento satellitare. E Allianz tra l'altro una polizza di Allianz che è sicuramente molto interessante. Dall'altra parte la tecnologia consente anche il collegamento dell'abitazione ad una centrale operativa, quindi con tutti i sensori che possono essere il sensore furto, ma anche fumo, gas, quindi tutto il tema della sicurezza della famiglia e dell'anziano, per esempio, piuttosto che la telemedicina, la telehealth, che è un'altra area che a me sta molto a cuore, avendo lavorato 15 anni nel farmaceutico, oggi lo Stato deve affrontare un problema di costi della sanità pubblica. Certo. Che non può più sostenere, questo ormai è ovvio in tutti i paesi europei, tra l'altro in Italia in particolare, Quindi il poter, per esempio, anticipare la deospedalizzazione del paziente, quindi poterlo seguire al domicilio, e quindi qui la tecnologia consente in remoto un monitoraggio dei valori principali attraverso dei devices che vanno da qualcosa che uno mette su un dito, certo, o che un braccialetto che porta collegato a una centrale operativa. Questo ovviamente. Quindi si possono fare anche risparmi sotto questo fronte attraverso l'innovazione. Ma ci sono stati dei casi particolari, come lei si occupa ovviamente dall'alto di tutta l'organizzazione, in cui sono rivolti a lei, non sappiamo come risolvere questo caso. È capitato qualcosa in cui ha dovuto intervenire, non certo per il piccolo incidente stradale, ma per qualcosa di più rilevante? Beh, noi trattiamo anche casi molto rilevanti, tipo, cioè, per esempio, assistere persone che hanno infortuni o gravi problemi di salute all'estero, in particolare negli Stati Uniti, dove sappiamo che tra l'altro la sanità è molto costosa. Quindi le nostre polizze danno una garanzia di copertura, ma non è solo la copertura posteriore, cioè il rimborso, certo, che vale. In quel momento la cosa importante è prendersi in carico la situazione del paziente e definire insieme agli operatori locali, ovviamente, il percorso ottimale. Faccio un esempio di una ragazza che si è fratturata la spina dorsale alle Hawaii, e per fortuna non era sola, era con la madre, ma noi l'abbiamo organizzato il trasporto dalle Hawaii negli Stati Uniti, lì è stata assistita, e poi dagli Stati Uniti, una volta raggiunto un livello, quello che si chiama il fit to fly, quindi essere trasportabile via aereo, è stata rimpatriata con un'aeroambulanza. Allora tutte queste vicende ovviamente passano per la mia valutazione, perché hanno delle implicazioni di costi molto rilevanti per l'azienda, ma è chiaro che l'azienda è in primis deve dare una soluzione. La missione è how can we help, quindi come possiamo essere d'aiuto ai nostri clienti. E comunque riuscite ad essere d'aiuto, comunque spera di poter riuscire anche, sì, in futuro ad affrontare anche queste situazioni difficili. Sicuramente. Come vede il suo futuro nel 2015, ancora alla guida di questa azienda? Il mio futuro lo vedo orientato molto adesso allo sviluppo, all'innovazione. Per 3 anni, che sono i 3 anni che ho passato finora in questa azienda, ho lavorato molto sulla ridefinizione della strategia, riorientamento delle competenze, riorganizzazione per trovare efficienza, e attraverso anche l'innovazione tecnologica, digitalizzazione dell'azienda, dematerializzazione, eccetera. Adesso voglio lavorare sull'innovazione, sui futuri 5 anni, 10 anni di prodotti, di sistemi, di tecnologia al servizio del cliente. E ce ne sarà di innovazione, ne viviamo tutti i giorni. Probabilmente siamo solo all'inizio di questa rivoluzione digitale di cui siamo ormai immersi. Quindi buon lavoro a Paola Corda Pellegrini. Grazie. Grazie di essere stata con noi questa sera. Grazie. Ringrazio anche Gianmarco Ferronato in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.